povero Matteotti, ti hanno fatta brutta e la tua vita te l'han tutta distrutta. E mentre che moriva, morendo lui diceva: voi uccidete l'uomo, ma non la sua idea. E mentre che moriva, con tutto il suo eroismo, gridava forte, forte, evviva il socialismo. Via chi sono, l'han fatto trucidare, noi altri proletari sapremo vendicare. Rudy Assuntino. Grazie. Certo.